Ciao a tutte e a tutti, siamo un gruppo anticarcerario di Berlino e abbiamo raccolto in questi giorni alcune informazioni sulla situazione carceraria tedesca e in particolare berlinese, e quindi vorremmo iniziare intanto con qualche dato. A Berlino ci sono almeno 8 prigioni, 6 istituti penitenziari diciamo normali, quindi quello di Tegel che è il più grande di tutta la Germania, Plötzensee che è un grande complesso, dentro cui ci sono anche l'istituto di detenzione minorile e un ospedale penitenziario. Poi c'è l'istituto di Moabit, un po' più centrale, quelli femminili di Lichtenberg. E quello di Neukölln che è di semilibertà, poi ci sono quello di Reinickendorf e Pankow e poi c'è un altro istituto di detenzione minorile. Ok, le condizioni carcerarie tedesche, come un po' tutti si immaginano, effettivamente sono migliori rispetto a quelle di altri paesi, soprattutto se le confrontiamo con l'Italia. Però tra i dati che abbiamo raccolto ci ha sorpreso sapere che anche nelle carceri tedesche si parla di sovraffollamento, soprattutto in questo periodo dove ci sta l'emergenza coronavirus. E poi un altro dato che ci ha sorpreso che nelle carceri, soprattutto a Berlino e ad Amburgo, la popolazione carceraria per il 50% è composta da stranieri, per di più persone dell'Est Europa e del Nord Africa. Questo dato è anche importante perché queste persone, la maggior parte non gli viene concesso un interprete e quindi ovviamente ci sono difficoltà per questi detenuti nel capire i documenti che gli vengono posti e del comunicare all'interno con i secondini e quant'altro. Quindi, ok, in linea generale, 5 detenuti. No, su 5 detenuti uno è straniero nelle carceri tedesche. La maggior parte, insomma, buona parte dei detenuti sta dentro anche per crimini veramente minimi, come per esempio non pagamento di multe. Qui ci sta questa possibilità che invece di pagare la multa ti sconti qualche giorno di carcere. Più o meno viene considerato un giorno di carcere 15 euro. E quindi questa cosa, come ben potete immaginare, crea anche una cosa classista, nel senso chi ha i soldi per pagarsi le multe si può risparmiare il carcere, chi non ha i soldi niente, gli rimane soltanto da farsi i giorni dentro. Poi, entrando un po' più nei dettagli rispetto a quello che è la situazione proprio in questo periodo, che calcolando che, come ben sappiamo, il carcere è uno specchio della società, di quello che succede fuori, è amplificato sicuramente, possiamo capire che qui, in Germania, essendo la situazione al di fuori, rispetto al coronavirus parlo molto più rilassata, tranquilla, sempre rispetto a quello che succede in Sì, Italia. diciamo che la propaganda è molto meno allarmistica rispetto a quella Esatto, le italiana. persone cioè, escono, stanno fuori, sì, ci sono delle restrizioni, ma sono sicuramente più blande rispetto a quello che succede in Italia. E quindi anche all'interno delle carceri la situazione, nonostante sia difficile, però è più tranquilla. E questa è una delle spiegazioni per cui ancora non ci sono state rivolte qua. Ci sono dei disagi forti, che mo ne parleremo, però vere e proprie rivolte, per quanto ne sappiamo, non ci sono. Allora, cominciamo raccontandovi un po' alcune dichiarazioni ufficiali. Per esempio, a marzo il direttore del carcere di Tegel, quello che dicevamo è il più grande di Germania, addirittura in una lettera circolare ufficiale al suo staff, chiaramente, comincia con un tono preoccupato per il futuro, i futuri mesi, dicendo che quindi avrebbe iniziato a sospendere la visita dei parenti, in quanto i carcerati si sentono insicuri per via del coronavirus e hanno addirittura paura di vedere i propri parenti. Chiaramente questo è il suo punto di vista. Sono cazzate. Esatto. Poi un pochino accolla il fatto che sicuramente avranno molti malati di coronavirus all'interno dei carceri, perché sono tutti degli alcolizzati, tossicodipendenti, addirittura fumano. Quindi questo porterà sicuramente il coronavirus dentro le carceri. E finisce questa sua comunicazione ufficiale informando i detenuti sulle norme igieniche, perché esistono secondo lui le norme igieniche nel suo carcere, dicendo, ravvisando tutti quanti che esistono i disinfettanti, che ne hanno in grande quantità o comunque sufficiente, e perciò usatelo tutti quanti. Chiaramente poi quando andiamo a vedere le dichiarazioni dei carcerati, la situazione cambia nettamente. Sì, diciamo che Sì, la descrizione proprio è è diversa. diversa. I detenuti comunque denunciano il fatto che non vengono eseguiti test all'interno delle carceri, test per il coronavirus, nemmeno vengono fatte analisi del sangue quando è necessario. Addirittura alcuni medici che lavorano all'interno delle carceri ritengono inutili questi test. Poi ci sono anche i principali dipendenti di alcune carceri che denunciano il fatto che le carceri tedesche sono sovraffollate, addirittura loro lo dicono. Consideriamo il fatto che qui in Germania un carcere viene considerato sovraffollato quando dall'85 al 90% dei posti all'interno delle carceri sono occupati, perché ci sta questo 10% di margine che viene considerato per i trasferimenti. Quindi in alcune carceri tedesche questa percentuale viene regolarmente superata e quindi si può tranquillamente parlare già di sovraffollamento. Che, come ben sappiamo, porta ad un aumento del rischio di infezione. E poi abbiamo alcuni rapporti di detenuti che denunciano il fatto che appunto, i test non vengono fatti nemmeno quando ci sono persone che hanno già alcuni sintomi. Ci sta questo racconto di detenuto che parla di tre persone con sintomi acuti, già di febbre, tosse, problemi respiratori, portati in infermeria con una pacca sulla spalla, sono stati riportati nelle celle dicendo va tutto bene, non vi preoccupate e non allarmate gli altri detenuti. Ecco, più o meno questa è la situazione. Ovviamente alcuni ospedali, alcuni sì, infermerie non dispongono nemmeno di attrezzature per poter trattare un caso di Covid all'interno delle mura. E tutto il materiale invece per proteggersi, quindi guanti, mascherine, disinfettanti, sono praticamente quasi assenti. Non solo per i detenuti, ma anche per il personale che lavora all'interno delle carceri. Tornando a parlare quindi di condizioni dei carceri, proprio di lavoro, no? Perché esiste tantissimo lavoro all'interno dei carceri tedeschi, abbiamo la testimonianza sia del lavoro nelle cucine sia del lavoro nelle lavanderie. Per esempio, sempre tornando al carcere di Plötzensee, in quel carcere, diciamo, le cucine, le mense, le cucine cucinano per un terzo dei detenuti di Berlino. In questo momento il numero dei detenuti è abbastanza basso, come avevamo detto prima. Sì, è diminuito, il numero dei detenuti sta comunque diminuendo perché sono state comunque fatte Dei rilasci. dei rilasci o addirittura delle sospensioni delle pene. E quindi si parla di un numero minimo di detenuti, un minimo storico attualmente che è di 3.339, questo a Berlino. A metà marzo, per esempio, c'era stata già la sospensione delle detenzioni, quelle delle condanne sostitutive, no? Quando quello che Sì, dicevamo condanna prima. sostitutiva viene considerata quella che appunto c'è una multa, non puoi pagarla e quindi hai questa condanna sostitutiva che te ne vai dentro per qualche giorno e quindi queste sono state sospese. Inoltre avevano anche concesso la sospensione dell'esecuzione delle condanne di pene inferiori a 3 anni per le persone ancora in libertà, chiaramente che poi sospese fino a luglio, quindi poi non ci sarà una sospensione definitiva, ma No, no, il solo. 15 luglio addirittura abbiamo una data precisa, questi si devono presentare Quindi il sotto 15 la luglio non mura. prenderanno più il Covid, a Non marzo sì, a prenderanno, luglio no. esatto. E anche alcuni minori sono stati, diciamo, lasciati a casa per il momento. Quindi in questo momento possiamo dire che intorno ai 3.000-3.400 sono i detenuti a Berlino. Quindi hanno diminuito comunque il numero dei detenuti, E perciò, però. tornando alle cucine di Plötzensee, possiamo dire che loro cucinano più o meno 1 migliaio di pasti al giorno. E quindi un numero considerevole per tutta la città. Il personale esterno di queste cucine, quindi quelli che lavorano con i detenuti, si spostano a piacimento in entrata e in uscita, senza tener conto delle misure di protezione. E nessun indumento protettivo, né camicie né cuffie. Mi Nemmeno verrebbe da quello dire, base, insomma, che dovresti portare anche sì, in non tempi di coronavirus, insomma, una cuffia esatto. in cucina, vabbè. Inoltre, chiaramente l'alimentazione, già immaginate, l'alimentazione tedesca, è abbastanza inadeguata e quindi immaginiamo in un carcere. Per esempio, parlando sempre di Plötzensee, loro dicono, i detenuti che ci lavorano, che più o meno il valore di ogni pasto dovrebbe essere di 3 euro al giorno, per un valore quindi su 1.000 pasti al giorno di 3.000 euro. Ma loro, il cibo scadente che viene comprato, addirittura la verdura marcia, sostengono, si aggira, diciamo, intorno a 1.000 euro e non 3.000 al giorno. Perciò esistono questi 2.000 euro al giorno che spariscono e non si sa bene dove. Sicuramente non nella salute dei detenuti, perché in questo tipo di alimentazione così scadente non ha sicuramente preparato i corpi dei detenuti a sopportare un virus come il corona. Inoltre ci sono varie testimonianze di punizioni collettive da parte del personale esterno delle cucine, ma non solo, chiaramente, se i detenuti resistono ad alcuni ordini. Ordini che per i detenuti possono anche essere abbastanza inutili, come trasferimenti da un carcere all'altro, che in questo momento così emergenziale evidentemente sono addirittura controproducenti. Trasferimenti lavorativi, tra l'altro, Sì, che potrebbero fare lo stesso lavoro all'interno delle carceri dove già esatto. stanno e non si capisce perché le spostano da un altro. Alcune di queste punizioni collettive sono reclusioni o addirittura sospensione del reddito, già abbastanza basso, evidentemente. Addirittura in una cucina c'è la testimonianza di 40 detenuti lavoratori che sono stati vittime di queste punizioni collettive e sono stati lasciati a pane secco e marmellata per 5 giorni. Altre testimonianze da lavoratori delle lavanderie. In una lavanderia, mi sembra sempre quella di Plötzensee, loro lavano il bucato di tutte le prigioni di Berlino e anche di molti ospedali. Tale bucato non arriva disinfettato e non viene comunque disinfettato lì nella lavanderia stessa. Anche in questo caso i lavoratori esterni, diciamo il personale esterno, diciamo, se ne frega altamente della salute dei detenuti con cui hanno a che fare. Inoltre, le comunicazioni con l'esterno delle prigioni berlinesi, che già, diciamo, in cui già ormai da marzo i carcerati vivono nel totale isolamento, sono assolutamente, sono comunque, vivono un momento di assoluta restrizione. Sì, che poi è assurdo perché vivono l'isolamento, sì, non possono vedere i parenti perché comunque è stato vietato, però comunque hanno contatti con le persone che lavorano nella lavanderia, con quelli che lavorano nella cucina, contatti con persone che non hanno mezzi per proteggersi da questo virus, insomma. Quindi viene Sì, negato da una parte il poter incontrare i propri familiari mentre hanno a che fare con comunque persone strane che vengono da fuori che tanto bene li possono infettare e quindi questo è un altro nonsenso di tutta questa storia. immaginiamo che comunque essere isolati in carcere, non solo in Germania, ma in tutto il mondo, significa che anche avere difficoltà nell'ottenere informazioni dall'esterno, diciamo di stesse notizie attuali sulla situazione riguardo al virus corona. In questo momento, per esempio, interessante è il caso che l'unico contatto con il mondo esterno avviene solo attraverso la telefonia di una certa ditta Telio, che diciamo, ha il monopolio della telefonia nel carcere, che ha prezzi mediamente abbastanza alti. Sempre tornando al complesso di Plötzensee, lì le testimonianze dicono che i telefoni attualmente sono assolutamente fuori uso, quindi neanche quello c'è. Questa fantomatica ditta Telio sostiene che per via della situazione emergenziale sta regalando 60 minuti gratuiti di telefonata alla rete fissa tedesca. Sì, si sta facendo Immaginate, grazie per esatto, questa. immaginate come molti detenuti hanno famiglie all'estero, per esempio, come dicevamo prima, perché dicevamo che per esempio Berlino e Amburgo hanno il 50% di popolazione carceraria all'estero e comunque c'è una media che va dal 30 al 40%. E comunque parliamo che ormai chi ce l'ha più la rete fissa, quindi anche volendo molti devono chiamare un cellulare evidentemente, quindi anche in E questo quello caso lo paghi e lo paghi e pure lo paghi caro. caro. Lo paghi caro insieme al prezzo dei francobolli, perché anche i francobolli continuano a sparare dei prezzi ogni anno sempre più alti. Niente, concludendo potremmo dire che quello che abbiamo capito dalle informazioni che abbiamo raccolto è che comunque la situazione dei detenuti è critica, evidentemente borderline, e i detenuti stessi chiedono misure concrete per sistemare la loro situazione igienica Igienica sanitaria. igienica sanitaria, sono comunque emotivamente a pezzi, ogni giorno vedono che la situazione all'esterno diventa sempre più grave, e loro sono totalmente isolati, quindi vorrebbero avere condizioni di prigioni aperte, molto più di così, anche per poter aiutare i loro familiari che sono fuori. Quindi vorremmo denunciare, insomma, il Sì, fatto volevamo che portare la voce di questi detenuti, capiamo bene che la situazione non è come quella in Italia dove ci stanno le rivolte e sono appunto di un interesse particolare. E qui la situazione appunto è un po' più calma da questo punto di vista, però ci sono detenuti che comunque stanno uno schifo ed è per noi importante portare pure la loro voce fuori. Ecco.